50 domande su Gesù. Gesù era celibe, sposato o vedovo? Dai dati che ci offrono i quattro Vangeli canonici, sappiamo che Gesù era un artigiano di Nazareth e che quando aveva circa 30 anni iniziò il suo ministero pubblico. Sappiamo che accanto al gruppo discepoli c'erano anche alcune donne che lo accompagnavano e altre con le quali aveva rapporti di amicizia. Anche se non viene mai specificato se fosse celibe, sposato o vedovo, gli evangelisti si riferiscono alla sua famiglia, a sua madre, ai suoi fratelli e sorelle, ma mai a sua moglie. Questo silenzio è eloquente. Gesù era conosciuto come il figlio di Giuseppe e quando gli abitanti di Nazareth si sorprendono per i suoi insegnamenti esclamano: «Non è questo l'artigiano, il figlio di Maria e fratello di Giacomo e di Giuseppe e di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non vivono qui tra noi?» In nessun testo si fa riferimento ad una moglie. La tradizione non ha mai fatto cenno di un possibile matrimonio di Gesù. E lo ha fatto non perché considerasse la realtà del matrimonio denigrante per la figura di Gesù, che restituì il matrimonio alla dignità originale o incompatibile con la fede nella divinità di Cristo, ma semplicemente perché si attenne alla realtà storica. Se avesse voluto celare aspetti che potevano risultare compromettenti per la fede della Chiesa, perché tramandò l'episodio del battesimo di Gesù per mano di Giovanni Battista che amministrava un battesimo per la remissione dei peccati? Se la Chiesa primitiva avesse voluto nascondere il matrimonio di Gesù, perché non occultò la presenza di donne concrete fra le persone che erano in stretta relazione con lui? Anche se mancano elementi storici, recentemente sono stati avanzati argomenti che sosterrebbero che Gesù fosse sposato. A favore di tale tesi ci sarebbe la pratica e la dottrina comune dei rabbini del secolo I della nostra età. Il celibato era inconcepibile fra i rabbini dell'epoca e se Gesù fu un rabbino dovette essere sposato. Ci sono però delle eccezioni, come Rabbi Simeon ben Azzai, che accusato per la scelta del celibato diceva: «La mia anima è innamorata della Torah, altri possono portare avanti il mondo», così nel Talmud di Babilonia. Altri affermano ancora che Gesù, come qualsiasi giudeo pio, si sarebbe sposato ai 20 anni e poi, all'inizio della sua missione, avrebbe abbandonato moglie e figli. A questo tipo di obiezione si può rispondere in due modi. Primo modo. Esistono prove che nel giudaismo del primo secolo si vivesse il celibato. Flavio Giuseppe, nella guerra giudaica e in antichità giudaiche, e Plinio il Vecchio, nella storia naturale, ci informano che tra gli Esseni, setta ebraica della Palestina diffusa tra il secondo secolo avanti Cristo e il 70 dopo Cristo, si vivesse il celibato. E sappiamo con sicurezza che alcuni esseni della comunità di Qumran sul Mar Morto erano celibi. Filone, nel De Vita Contemplativa, segnala che i terapeuti, un gruppo di asceti egiziani, vivevano il celibato. Inoltre, nella tradizione di Israele, alcuni personaggi famosi, come Geremia, avevano vissuto il celibato. Mosè stesso, secondo la tradizione rabbinica, visse l'astinenza sessuale per mantenere la sua stretta relazione con Dio. Neppure Giovanni Battista si sposò. Pertanto, pur essendo il celibato poco comune, non era qualcosa di inaudito. Secondo modo, anche se nessuno avesse vissuto il celibato in Israele, non potremmo dedurne necessariamente che Gesù fosse sposato. I dati, come si è detto, mostrano che volle rimanere celibe e sono molte le ragioni che rendono plausibile e conveniente questa opzione, precisamente perché l'essere celibe sottolinea la singolarità di Gesù in relazione al giudaismo del suo tempo ed è più in accordo con la sua missione. Senza sminuire il matrimonio ed esigere il celibato ai suoi seguaci, con questa scelta Gesù pone su ogni altra cosa la causa del regno di Dio e l'amore a Dio che lui incarna. In ogni caso, in nessun scritto, sia canonico che apocrifo, si afferma che Gesù fosse sposato.